sacro di mia maggiore. Presto lei che sposa esser dovrà d'un figlio, due seduttori io scorgo. Entrate o là, miei figli cavalieri. Io ognun testimon del disonore dell'orta che si reca al suo invece, piomba invece.